E ahimè, vietò in maniera assoluta di lasciarmi andare a teatro a sentire la Bergman. L'artista sublime che Bergotte trovava geniale mi avrebbe consolato, facendomi conoscere qualcosa che forse era altrettanto importante e bello, di non essere andato a Firenze e a Venezia, di non poter andare a Balbec. Bisognava accontentarsi di mandarmi ogni giorno agli Champs-Élysées, sotto la sorveglianza di una persona che mi impedisse di stancarmi, e che fu Françoise, entrata al nostro servizio dopo la morte di zia Léonie. Andare agli Champs-Élysées mi era insopportabile. Se almeno Bergotte li avesse descritti in uno dei suoi libri, sicuramente avrei desiderato conoscerli come tutte le cose di cui avevo cominciato a mettere il doppio nella mia immaginazione. Questa li rianimava, le faceva vivere, dava loro una personalità e io volevo ritrovarle nel mondo reale. Ma niente in quel giardino pubblico si collegava alle mie fantasie. Un giorno, poiché al nostro solito posto, accanto alle giostre dei cavalli, mi annoiavo, Françoise mi aveva portato a fare un giro, oltre la frontiera presidiata a intervalli regolari dai piccoli bastioni delle venditrici di zucchero d'orzo, nelle regioni prossime ma straniere, dove i volti sono ignoti e passa il carrettino trainato dalle capre. Poi era tornata a prendere la sua roba che aveva lasciata sulla sedia, addossata a un cespuglio di lauri. Nell'attesa camminavo, calpestando l'erba del grande prato, stento e rasato, ingiallito dal sole, con in fondo la vasca sormontata da una statua, quando dal viale, rivolgendosi a una ragazzina coi capelli rossi che giocava al volano davanti alla vasca, un'altra, che stava per infilarsi il cappotto e riporre la racchetta, le gridò con voce breve: «Ciao Gilbert, io torno a casa. Ricordati che stasera dopo cena veniamo da te». Quel nome Gilbert mi passò accanto, evocando tanto più acutamente l'esistenza di colei che disegnava, in quanto non la nominava soltanto come un assente di cui si parla, ma la interpellava. Mi passò dunque accanto, per così dire, in azione, con una potenza che accresceva l'arco della sua traiettoria e l'avvicinamento alla meta. Portando con sé, lo sentivo, la conoscenza, le nozioni concernenti la sua destinataria che non io, ma l'amica che l'aveva chiamata possedeva. Tutto ciò che questa, nel pronunciare quel nome, rivedeva o perlomeno custodiva nella memoria della loro intimità quotidiana, delle visite che si facevano l'un l'altra. Tutto l'ignoto, reso per me ancor più inaccessibile e doloroso dal fatto di essere invece così familiare e a portata di mano per quella ragazzina fortunata che me lo faceva lambire senza che mi fosse possibile penetrarvi e lo lanciava nell'aria dentro un grido, spandendo già nell'aria l'effluvio delizioso che aveva fatto sprigionare, toccandoli con precisione da certi punti invisibili della vita di Mademoiselle Swann, dalla sera che si approssimava, come si sarebbe presentata dopo cena a casa sua, formando, passeggero celeste in mezzo a bambini e governanti, una nuvoletta di colore prezioso, simile a quella che turgida sopra un bel giardino di Poussin, riflette minuziosamente, come una nuvola di opera piena di cavalli e di carri, qualche apparizione della vita degli dèi. Proiettando infine su quell'erba spelacchiata, là dove era al tempo stesso un lembo di prato inaridito e un attimo del pomeriggio della bionda giocatrice di volano, che non smise di lanciarlo e riprenderlo finché non fu richiamata da un'istitutrice dalla piuma azzurra, una piccola striscia meravigliosa del colore dell'eliotropio, impalpabile come un riflesso e sovrapposta come un tappeto, sulla quale non potei stancarmi di muovere i miei passi rallentati, nostalgici e profanatori, mentre Françoise mi gridava: «Su, abbottonatevi il cappotto, andiamocene!» E io notavo per la prima volta con irritazione che si esprimeva in modo volgare e non aveva, ahimè, nessuna piuma azzurra sul cappello. Sarebbe tornata almeno agli Champs-Élysées? L'indomani non c'era, ma i giorni seguenti la vidi, Continuavo a girare intorno al punto in cui giocava con le amiche, finché, una volta che non erano in numero sufficiente per giocare a bandiera, mi fece chiedere se volevo completare la squadra. E da allora in poi giocai con lei ogni volta che veniva. Ma non veniva sempre. In certi giorni era occupata a causa delle lezioni, del catechismo, di una merenda, di tutta quella vita separata dalla mia che per due volte, condensata nel nome Gilberte, così dolorosamente avevo sentito passare accanto a me lungo la scorciatoia di Combray e sul prato degli Champs-Élysées. In quelle occasioni Gilberte annunciava in anticipo che non sarebbe venuta. Se era per motivi di studio diceva «Uffa, domani non potrò venire, vi divertirete tutti senza di me», con un'aria afflitta che mi consolava un po'. Ma in compenso, quando era invitata a un matinè e io, non sapendolo, le chiedevo se sarebbe venuta a giocare e mi rispondeva «Spero proprio di no, spero proprio che la mamma mi lascerà andare dalla mia amica». Almeno in quei casi sapevo che non sarebbe venuta, mentre altre volte sua madre decideva all'improvviso di portarla con sé a fare commissioni e il giorno dopo Gilberte diceva «Ah sì, sono uscita con la mamma», come si trattasse di una cosa naturale e non per qualcuno della più grande sventura possibile. E poi c'erano i giorni di cattivo tempo in cui la sua istitutrice, che temeva la pioggia, non voleva portarla agli Champs-Élysées. Così, se il cielo era incerto, fin dal mattino non cessavo di interrogarlo e tenevo conto di ogni presagio. Se vedevo la signora di fronte che accanto alla finestra si metteva il cappello, mi dicevo «Quella signora sta per uscire, quindi è bel tempo, si può uscire. Perché Gilberte non dovrebbe fare come quella signora?» Ma il cielo si oscurava. Mia madre diceva che poteva ancora schiarire, che sarebbe bastato un raggio di sole, ma era più probabile che piovesse. E se pioveva, a che scopo andare agli Champs-Élysées? Così, dopo colazione, i miei sguardi ansiosi non si staccavano più dal cielo incerto e nuvoloso. Restava scuro. Davanti alla finestra il balcone era grigio. D'un tratto, sulla sua pietra tetra, vedevo non un colore meno spento, ma avvertivo come uno sforzo verso un colore meno spento, il fremito di un raggio esitante che volesse liberare la sua luce. Un istante dopo, il balcone era pallido e specchiante come un'acqua mattutina. Vi si erano posati mille riflessi del ferro battuto della sua ringhiera. Un soffio di vento veniva a disperderli. La pietra s'era di nuovo incupita, ma quasi fossero addomesticati, ritornavano. La pietra ricominciava impercettibilmente a schiarirsi e con uno di quei crescendo continui che in musica, alla fine di un'ouverture, portano una sola nota fino al supremo fortissimo, facendola passare rapidamente per tutti i gradi intermedi, la vedevo raggiungere l'oro fisso e inalterabile delle giornate serene, sul quale l'ombra frastagliata della balaustra, ricca di motivi, si stagliava in nero come una vegetazione capricciosa, con una levità nel delinearne i minimi dettagli che pareva tradire una diligenza consapevole, una soddisfazione d'artista, e con un tale rilievo, un tale velluto nell'abbandono delle sue masse scure e gioiose che, in verità, quei riflessi larghi e frondosi posati su quel lago di sole sembravano consapevoli di essere garanzie di calma e di felicità. Edera che dura un solo istante, fuggitiva flora parietaria, la più incolore, la più triste, a giudizio di molti, fra quante possono serpeggiare lungo un muro o decorare una finestra, fra tutte per me la più cara, dal giorno in cui era apparsa sul nostro balcone, come l'ombra stessa della presenza di Gilberte, che forse era già agli Champs-Élysées, e non appena fossi arrivato m'avrebbe detto «Cominciamo subito a giocare a bandiera, voi siete nella mia squadra». Fragile, portata via da un soffio, ma anche collegata, se non alla stagione, all'ora. Promessa di felicità immediata, che la giornata infrange o concederà, e dunque della felicità immediata per eccellenza, la felicità dell'amore, più dolce, più calda ancora, sulla pietra, dello stesso muschio. Vivace, se le basta un raggio di sole per nascere e far nascere gioia persino nel cuore dell'inverno. E perfino nei giorni in cui ogni altra vegetazione è scomparsa, in cui il bel cuoio verde che avvolge il tronco dei vecchi alberi è nascosto sotto la neve, quando questa cessava di cadere, ma il cielo restava troppo coperto per sperare che Gilberte uscisse, ecco che tutto a un tratto, facendo esclamare a mia madre: «Ma guarda, viene bello, potreste anche provare ad andare agli Champs-Élysées». Sul manto di neve che copriva il balcone, il sole appena apparso intrecciava fili d'oro e ricamava riflessi neri. Quel giorno non trovavamo nessuno, o una ragazzina sola e sul punto di andarsene che mi assicurava che Gilberte non sarebbe venuta. Le sedie, disertate dall'assemblea imponente ma freddolosa delle istitutrici, erano vuote. Sola, vicino al prato, stava seduta una signora di una certa età che veniva con qualsiasi tempo, sempre avviluppata nella stessa toilette sontuosa e scura, per fare la conoscenza della quale avrei sacrificato allora, se lo scambio mi fosse stato permesso, tutti i più grandi onori della mia vita futura. Questo perché Gilberte andava ogni giorno a salutarla e lei chiedeva a Gilberte notizie di quel tesoro di sua madre. E mi sembrava che se l'avessi conosciuta sarei stato per Gilberte qualcuno completamente diverso, uno che conosceva le amicizie dei suoi genitori. Mentre i suoi nipotini giocavano poco lontano, lei leggeva tutto il tempo i débat, che chiamava i miei vecchi débat, e con fare aristocratico diceva, parlando della guardia municipale o della donna che affittava le sedie: «Il mio vecchio amico, la guardia municipale, la donna delle sedie e io siamo vecchi amici». Françoise aveva troppo freddo per star ferma. Ci spingemmo fino al ponte della Concorde per vedere la Senna gelata, alla quale tutti, persino i bambini, si avvicinavano senza timore, come a un'immensa balena arenata e indifesa che presto verrà fatta a pezzi. Tornavamo agli Champs-Élysées. Io languivo di dolore fra i cavalli di legno immobili e il prato bianco, intrappolato nella rete nera dei viali dai quali avevano spalato la neve, e dove alla mano della statua si era aggiunto uno zampillo ghiacciato che sembrava la spiegazione del suo gesto. Anche la vecchia signora, ripiegati i suoi débat, chiese l'ora a una governante che passava e la ringraziò dicendole: «Come siete gentile!». Poi pregò il guardiano di dire ai suoi nipotini di tornare. Aveva freddo e aggiunse: «Mi farete una grandissima cortesia, davvero mi confondete». D'un tratto l'aria si squarciò. Fra il teatro dei burattini e il circo, all'orizzonte rischiarato contro il cielo dischiuso, avevo scorto, segnale favoloso, il pennacchio azzurro di Mademoiselle. E già Gilberte mi correva incontro a tutta velocità, sfavillante e arrossata, sotto un berretto quadrato di pelliccia, animata per il freddo, il ritardo e il desiderio di giocare. Poco prima di raggiungermi, si lasciò scivolare sul ghiaccio e, per tenere meglio l'equilibrio, o perché le sembrava più grazioso, o per imitare la posa di una pattinatrice, avanzava sorridendo a braccia aperte, come se avesse voluto accogliermi. «Brava, brava, benissimo! Come dite voi, direi che è chic, che è coraggioso, se non appartenesse a un'altra epoca, l'epoca dell'Ancien Régime!» esclamò la vecchia signora, prendendo la parola in nome dei muti Champs-Élysées per ringraziare Gilberte d'essere venuta senza lasciarsi spaventare dal tempo. «Siete come me, fedele in ogni caso ai nostri vecchi Champs-Élysées, siamo due intrepide, e se vi dicessi che li amo anche così, questa neve, adesso riderete di me, mi fa pensare all'ermellino». E la vecchia signora si mise a ridere.